un grande spettacolo a 23 ore. Prepari il vostro umile buon servitore. Vedrete le smanie del bravo pagliaccio e come si pendi che tendi un bellaccio. Vedrete di Tonio tremar la carcassa e quale matassa di figlior di voi. Venite, onorateci, signori e signore, a 23 ore, a 23 ore. Ha ha ha!